Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. E allora, di cosa ci occuperemo? Qual è la cronaca di questa giornata economico-finanziaria? La manovra da un lato, domani Consiglio dei Ministri, dall'altro però anche dati che arrivano dall'Europa e la difficile posizione inglese. Non è un mistero, gli britannici se ne sono accorti nel fine settimana. Insomma, il timore adesso a Londra è che la Gran Bretagna resti troppo isolata. Il vecchio detto era nebbia sulla manica, il continente isolato. Cameron però si è impuntato, stando a quello che scrive anche la stampa inglese, il premier britannico si è impuntato su quello che riguarda la regolamentazione dei servizi finanziari, e in Inghilterra e in Gran Bretagna più di un commentatore ha detto: ma insomma, isolarci dall'Europa per salvare la City, quindi la piazza finanziaria britannica, forse è un po' troppo, anche perché sappiamo che la City britannica, quanto a assenza di regole e rischi impropri, non è stata da meno rispetto a Wall Street, e ne sanno qualcosa alcune famosissime banche inglesi che sono fallite di fatto e sono state nazionalizzate. Penso alla Royal Bank of Scotland, comprata per oltre il 70% dal governo britannico, se no era una banca fallita. Comunque parleremo di Gran Bretagna, parleremo anche però delle notizie che arrivano a casa nostra, da casa nostra, e mi riferisco da un lato all'evasione fiscale e dall'altro anche ai dati sugli stipendi degli italiani, le retribuzioni degli italiani. Vi dico subito che le retribuzioni lorde sono ai minimi dal 2009, nel terzo trimestre, ne abbiamo già parlato due settimane fa, però nel terzo trimestre le retribuzioni segnano su base annua la crescita più bassa dal terzo trimestre del 2009. Questo nel momento in cui arrivano dati sempre più incredibili, devo dire, sull'evasione fiscale. Adesso ne parleremo in apertura, parleremo della possibilità che si blocchi, come principio quasi di incostituzionalità, la possibilità di far pagare a chi ha scudato i soldi con lo scudo di Tremonti un altro 1,5% di tasse. Cercheremo di capire perché l'Italia non stia facendo l'accordo con la Svizzera come ha fatto la Germania e la Gran Bretagna. Vi dico subito che è nettamente contraria alla Commissione Europea, che non vuole che vi siano accordi bilaterali, ma vuole che vi sia un accordo Europa con la Svizzera. È un accordo che prevede, in cambio del mantenimento del silenzio bancario, del segreto bancario svizzero, una tassa una tantum, un 25% dei depositi che i cittadini hanno in Svizzera. Si calcola che gli italiani abbiano circa 100-130 miliardi di euro in Svizzera, per cui voi capite bene che una tassa del 25%, una tantum, sarebbero 25 miliardi, è già fatto la manovra per quello che riguarda la Svizzera. L'evasione resta, ci sono dei dati incredibili, ma insomma, è mai possibile che a Milano la dichiarazione dei redditi, metà delle dichiarazioni dei redditi siano di persone in povertà, 15.000 euro lordi? 15.000 euro lordi a Milano? Adesso, se fosse così avremmo una situazione tragica, le file davanti alla Caritas, davanti alla San Vincenzo, i ristoranti veramente vuoti e non le macchine in doppia fila. Insomma, attenzione, l'evasione c'è al sud, ma ripeto, a Milano la metà dei contribuenti dichiara meno di 15.000 euro, quelli che possono dichiarare. Mi dispiace per l'ascoltatore che dice: ma basta con l'evasione, è lo Stato che è un ladro. No, mi dispiace, il reato si chiama evasione fiscale. Poi lo Stato italiano è inefficiente, funziona male, va riformato, costa troppo, tagli vanno fatti alla spesa pubblica e anche agli impiegati del pubblico settore improduttivi, che non sono tutti, però basta con l'evasione, se lo scorda, noi continueremo con l'evasione. 349-238-6666 per i vostri sms, e parleremo anche di borse che oggi, dopo un avvio debole, adesso perdono tutte in maniera netta: meno 3,35% Milano, meno 2,26% Parigi, meno 3% Francoforte, perde 1,5% anche Londra, e l'America 1,5%. Tra i titoli segnalo Monte dei Paschi meno 8%, Popolare Emilia Romagna meno 7,80%, Fondiaria meno 7,5%, Banco Popolare meno 7%, Ubibanca meno 6,77%, Popolare di Milano meno 5,5%, come Unicredito e anche Intesa San Paolo. Una correzione la faccio in apertura. Ha scritto un ascoltatore giustamente, venerdì scorso ho detto che l'EBA era la European Banking Association e non è così, è European Banking Authority, ed è il motivo per cui quando l'EBA parla crollano i titoli bancari, quando chiede 114 miliardi in più di capitalizzazione è l'autorità bancaria europea, non è diciamo l'ABI europea. È stato un mio errore, un mio refuso. Chiedo venia, le notizie in breve. Vincerà la RAF o la Luftwaffe, scrive un ascoltatore. Vabbè, abbiamo detto che è una guerra in corso, ma non è una guerra di queste proporzioni. Dopodiché la storia ci insegna che allora vinse la RAF. Però attenzione, sulla Gran Bretagna, della Gran Bretagna parleremo, ripeto, fermo restando il tradizionale isolamento inglese. Molti hanno criticato non tanto che Cameron abbia rotto con l'Unione Europea, capitò ai tempi della Thatcher, capitò ai tempi di John Major, ma il motivo per cui si è andati a uno scontro con l'Europa, cioè tutelare la City, tutelare la piazza finanziaria britannica da regole troppo stringenti. Beh, no? Petrolio in calo $98 a New York, oro in calo $1,684 l'oncia, sempre New York. E invece la bolletta energetica italiana, cioè quanto spende l'Italia in un anno per approvvigionarsi, per far fronte al fabbisogno energetico, potrebbe toccare un nuovo record nel 2012, verso i 65 miliardi di euro, lo stima l'Unione Petrolifera Italiana, quella di De Vita, che insomma, ne sa lunga sui prezzi. Ancora Standard & Poor's. Oggi tocca rispolverare un gufo reduce dal ponte, ma insomma Standard & Poor's mi fa impazzire, perché da Tel Aviv Jean-Michel Six, capo economista di Standard & Poor's, dice: attenzione, il tempo sta scadendo e per avere una soluzione convincente alla crisi del debito dell'area euro probabilmente servirà un altro shock. Standard & Poor's, lo sapete, è un'agenzia di rating, quelle che hanno i voti dei paesi e determinano anche il giudizio, i tassi di interesse di un paese, dando voti più o meno buoni sull'affidabilità di un paese. Continua Jean-Michel Six: probabilmente servirà un altro shock prima che i governi si rendano conto della situazione e trovino un accordo. Una grossa difficoltà di una grande banca tedesca sui mercati, una possibilità concreta nel breve termine, potrebbe far capire anche ai tedeschi che sono tutti sulla stessa barca. Allora, prima il gufo e poi la mazzata. No, nessuno, non è che il ragionamento sia strano, per carità, è chiaro che se andasse in difficoltà una grossa banca tedesca, anche i tedeschi capirebbero che pure loro sono pieni di obbligazioni italiane, obbligazioni spagnole, obbligazioni irlandesi, greche, l'abbiamo detto mille volte. Però io mi chiedo, già le agenzie di rating continuano a parlare, è il loro lavoro, e hanno un piccolissimo conflitto di interessi che continua a non essere chiarito, secondo me. Ma che senso ha da Tel Aviv ascoltare con massimo rispetto il capo economista di Standard & Poor's, Jean-Michel Six, che dice probabilmente servirà un altro shock, che ce la sta tirando? No, perché voglio dire, dopodiché aggiunge, occorrerebbe che entrasse in difficoltà una grossa banca tedesca, che è una possibilità concreta, e tutti a chiedersi chi sarà, così anche i tedeschi capiranno che sono tutti sulla stessa barca. Ma è un modo di parlare questo. Ci vediamo al bar, caro Jean-Michel Six, ci beviamo uno spritz e diciamo le stesse cose, su. O fai i nomi, o ci dici dove, come, quando, o se no è terrorismo mediatico, tra l'altro da chi già dovrebbe imparare a stare un po' più zitto e muoversi, diciamo, in maniera completamente, diciamo, senza generare sospetti sul tempismo, mettiamola così, dai. Anche Moody's, l'altra agenzia di rating, dice che l'Europa non ha avviato misure decisive, l'Unione Europea resta sotto il controllo, e va bene. Olli Rehn, il commissario europeo agli affari economici e monetari, ha detto: dispiace vedere la Gran Bretagna fuori dal patto. Lo ascolteremo dopo le sue dichiarazioni. E comunque ha detto: se la mossa della Gran Bretagna voleva evitare che la City e i suoi servizi finanziari non venissero regolati, questo non succederà, perché applicheremo le regole anche al settore finanziario. Dopodiché, con quello che è successo nel 2008, cioè l'assenza di regole, dove ci ha portato, forse difendere la City così, e l'assenza di regole e controlli non mi sembra una gran mossa da parte di Cameron. Comunque, tanto. Asta italiana dei titoli di Stato, oggi era il bot day e i nostri bot valgono tantissimo, eh? Comunque lo spread resta alto al 5,95% del rendimento dei bot a 12 mesi, c'è stato un leggero calo rispetto al 6,07% dello scorso 10 novembre. Boom di richieste, 7 miliardi da collocare, 13 miliardi e mezzo la richiesta. Lo spread però tra i nostri BTP a 10 anni e il Bund, cioè quanto costa a noi indebitarci rispetto a quanto costi la Germania, e più a uno costa indebitarsi più vuol dire che ha rischio, un po' come quando va in banca, è salito a 470 punti e il rendimento decennale al 6,77%. Restiamo in tema di, ascolteremo anche il segretario della CGIL Susanna Camusso più avanti, restiamo in tema di politica economica italiana e manovra, per due notizie in breve prima di partire con l'evasione fiscale, o meglio con quello che è previsto dalla manovra del governo in tema di evasione fiscale. Allora, se le retribuzioni in Italia sono ai minimi come crescita dal 2009, c'è un altro dato a mio avviso che fotografa benissimo la densità di questa crisi. Pensate che si è praticamente bloccato, alcuni di voi diranno meno male, per carità, il flusso migratorio verso l'Italia. Cioè, gli immigrati erano nel 2009, gli arrivi complessivi erano circa 500.000 arrivi. Nel 2010 non si è andati, cioè i nuovi arrivi sono stati solo 70.000, cioè da 500.000 in più, che per carità molti diranno, soprattutto quando sono clandestini, meno male così, però al di là del giudizio che uno può dare su questo, è incredibile vedere che gli immigrati da mezzo milione sono scesi a 70.000, vuol dire che il paese non attrae più, la crisi viene percepita anche nelle zone classiche fonte di immigrazione verso l'Italia. L'occupazione straniera però ha dimostrato di reggere alla crisi molto meglio di quella italiana, lo diffonde oggi questo dato sostanzialmente l'ISMU, la fondazione ISMU, molto meglio, perché è cresciuta la forza lavoro immigrata tra il fine 2010 e inizio 2011 del 14%, mentre gli italiani hanno perso 160.000 posti di lavoro. Beh, qui sappiamo cos'è, gli immigrati accettano orari, salari, spesso del tutto illegali anche, che gli italiani non sono disposti a accettare, e devo dire che quando sono illegali fanno bene gli italiani. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, poi parleremo anche di Equitalia, tutta la nostra solidarietà a Marco Cuccagna e Equitalia. Uno può criticare Equitalia, l'abbiamo fatto anche noi, può criticare l'Agenzia delle Entrate, ma il reato è, e quindi chi compie il reato è l'evasore. Chi riscuote il fisco sta nel diritto, nel giusto. Su questo non iniziamo neanche una discussione. E quindi massima solidarietà al direttore generale di Equitalia. Dopodiché che si possa migliorare gli accertamenti, gli studi di settore, che non ci debba essere accanimento, siamo tutti d'accordo, però la legge da una parte e l'illegalità è dall'altra, ossia con l'evasione fiscale. Andiamo proprio su questo tema. Contribuenti, dati dell'anagrafe tributaria, con redditi al di sotto dei 20.000 euro lordi l'anno, che vuol dire che se ti va bene guadagni 1.200-1.300 euro lordi al mese, euro netti al mese, possiede una barca di oltre 10 metri e miracoli, che sono il 42% dei natanti. Ora io non ce l'ho con i produttori di barche, però è inutile continuare a dire anche il camper costa come una barca. Ho capito, uno usa il camper per risparmiare sull'albergo, la barca di solito non la usi per quella sotto i 10 metri per dormirci su. E comunque 42.000 contribuenti con redditi al di sotto di 20.000 euro l'anno hanno una barca di oltre 10 metri. 518 di loro, questa è bellissima, meno di 20.000 euro lordi l'anno, possiedono anche un aereo che si saranno costruiti all'IKEA, immagino, o un elicottero, un quarto anche qui se lo saranno costruiti con i modellini che si usano per Natale per i bambini. 188.000 auto di lusso in questo paese, intestate a contribuenti che denunciano redditi minimi sotto i 15.000 euro. 188.000 auto di lusso, quelle sopra i 185 kW. Ai contribuenti della fascia tra i 20.000 e i 50.000 euro, che comunque 50.000 euro lordi se c'è due figli sono ancora pochissima cosa, sono intestati, se fossero veri questi soldi, fanno capo 217.000 SUV, 26.000 imbarcazioni oltre 10 metri e 604 aerei elicotteri, di gente che dichiara tra i 20 e i 50.000 euro lordi. Dai, per favore. E a Milano, appunto, metà dei residenti dichiara meno di 15.000 euro lordi l'anno, e che si capisce che chi vi parla è un miliardario a Milano, purtroppo. Non mi sembrava, ma insomma, i redditi a Milano sopra i 150.000 euro lordi sono solo l'1,3%. E questo nonostante le famiglie in Lombardia e a Milano spendono mediamente 3.000 euro al mese. Professor Tommaso Di Tanno, docente di diritto tributario all'Università di Siena, buonasera. Buonasera. Non la tedierò sull'evasione fiscale, però questi dati li volevo leggere perché poi no. Io sono fra gli 1,3%. Anche lei è un miliardario, anche lei è un miliardario. Vede che siamo in due, perché qua il lavoratore dipendente tende ad essere un po' più miliardario. Comunque, evidentemente, questo è il passo al paese. No, ma i dati mi servono per far capire quando si dice di accanimento. Accanimento è una cosa, e delle volte Equitalia si è sbagliata, ha sbagliato, quello che volete, no? Ma che la Federazione Anarchica Informale, la FAI, si occupi di mandare bombe a Equitalia e che su internet ci sia il sostegno, è una cosa indegna, indecente, fatta da chi da troppi anni si sta arricchendo, impoverendo il paese. Che quando tu non paghi le tasse mancano i soldi per il welfare, mancano i soldi per le auto della polizia, lo so che sembra vecchia roba, ma mancano i soldi per le infrastrutture, e poi caricano le tasse a tutti, IVA e quant'altro. Mi dica una cosa invece, in primo luogo, la tassa sui capitali scudati, l'1,5% in più. I tecnici della Camera e della Corte dei Conti hanno espresso dubbi sulla possibilità di rompere un patto preso sul tempo con lo scudo fiscale del 5%. Il governo si attende 2 miliardi. Lei come la vede, visto che è uno dei massimi esperti tributaristi italiani? Ma io la vedo che qui non c'è un patto che viene rotto, perché vediamo qual era il patto, tanto per cominciare. Il patto è che non sarebbero potuti essere accertati redditi conseguiti nei periodi precedenti a quello dello scudo. Nel caso specifico stiamo parlando di redditi fino al 2008, in questo momento parlo dello scudo 2009, diciamo quello più recente, ma lo stesso discorso si può fare anche per lo scudo del 2001. Che cosa prometteva il legislatore italiano agli scudanti? Gli prometteva che non sarebbero stati fatti accertamenti con riferimento ai redditi conseguiti negli esercizi precedenti. Quindi se l'imposta sullo scudo non è un'imposta sul reddito, e così mi pare che l'abbia costruita il decreto Monti, ma è un'imposta semplicemente sul patrimonio emerso a seguito dello scudo, non c'è nessuna illegittimità e non c'è nessun tradimento delle aspettative sollevate con la normativa dello scudo. Ecco, questo è importante. Ce le dice, siccome non è un'imposta sui redditi prodotti, ma sui patrimoni, non si va, cioè, esiste anche un principio, non so se si possa chiamare di retroattività, ma insomma uno può dire vabbè, ti carico un altro punto e mezzo percentuale. Ma questo, ripeto, non è un punto e mezzo percentuale caricata sulla vecchia imposta, questa è una nuova imposta, certo. È completamente nuova. La base imponibile di questa imposta sono eventi del passato, quindi si può discutere sulla legittimità di un'imposizione con effetto sostanzialmente retroattivo, ma per la verità viene anche data un'alternativa a questi signori. Qualora questi signori non intendano pagare questa imposta, l'intermediario finanziario, che è colui che deve applicare l'imposta, si limiterà a segnalare il loro nome. Quindi se questi signori non hanno nulla più da temere, perché dopo il 2008 non si sono più macchiati neanche di un peccatuccio, possono tranquillamente non versare l'imposta e accettare che il loro nome venga conosciuto da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ok, da questo mi interessava. Quindi uno poteva chiedere a questo punto anche il 2,5%, il 4,5%, cioè il principio non cambiava. Confesso che l'1,5% mi sembra un po' troppo poco. Un pochino. Mi sembra un po' troppo poco. Ma perché tutta questa prudenza, secondo lei, di tanto? Cioè, Tremonti, a chi aveva portato fuori illegalmente in Lussemburgo, in Liechtenstein, in Svizzera, 104 miliardi di euro, quindi compiendo già un reato, pagando zero di tasse, gli chiese il 5%, che capirai, anche l'aliquota più bassa paga di più. E adesso Monti dice, vabbè, se Tremonti ha chiesto il 5%, un solo Monti chiede l'1,5%. Cos'è tutta questo timore? Ma che c'è? Della reverenza, secondo lei? Diciamo che c'è un eccesso di rispetto nei confronti di questi signori. L'1,5% deriva dal fatto che evidentemente Monti ritiene che questi signori, che non sono dei morti di fame, diciamo che questi signori sono signori che possono permettersi fior di avvocati e fior di fiscalisti. Esatto. Evidentemente Monti teme che questi signori possano in qualche modo contestare quest'imposta avvalendosi dei migliori difensori di questo mondo. Quindi cerca di limitare il danno, cerca di proporre un'aliquota particolarmente bassa, tanto da indurre questi signori alla fin fine ad accettarla. Guardi, se posso aggiungere una considerazione personale, devo dire che non mi dispiace l'impostazione di Monti. Non mi dispiace l'impostazione di Monti perché è un'impostazione molto pragmatica, cioè non è un'impostazione giustizialista, ma un'impostazione pragmatica. Chi impone delle nuove tasse deve essere ragionevolmente certo di incassarle, perché altrimenti rischia di fare un'operazione puramente populista. Però anche lei dice che è un po' pochino l'1,5. Però ciò nonostante, quindi, dopo aver detto che condivido l'impostazione di Monti, le confesso che l'1,5% mi sembra scandalosamente troppo poco, scandalosamente bassa. Su 104 miliardi illegalmente. Poi parlate con qualche direttore, a chi scrive? C'è qualcuno che mi dà del mafioso bastardo, e vabbè. Però evidentemente, poi magari se mi comunica anche la sua dichiarazione dei redditi, vediamo chi dei due è mafioso, chi dei due è bastardo, perché insomma, sai, io le tasse le pago qui da solo 24 ore. Ma evidentemente l'1,5 su, parlate con un direttore di banca qualunque, vi racconta quello che è successo durante lo scudo fiscale, persone insospettabili che rimpatriavano decine di milioni di euro. Ora dai, si poteva chiedere anche il 2,5-3%. Di Tanno, ripeto, lei è uno dei massimi tributaristi italiani. La tracciabilità, anche qui, perché vogliamo analizzare puntata per puntata gli elementi emersi dalla manovra finanziaria. Cioè, chi ha detto 1000 euro, beh, si poteva fare a 500 euro, come per i versamenti pensionistici. Tra l'altro avete visto che l'ABI ha detto sì ai conti correnti a costo zero per i pensionati che riceveranno la pensione via conto corrente. Non è un po' alta 1000 euro? Guardi, torno a dire, mi piace l'approccio del governo Monti. Quindi mi piace il fatto di ridurre l'utilizzo del denaro contante, perché il grosso del nero lo si fa con l'utilizzo del denaro contante. Quindi l'abbassare questo utilizzo da 12.500 a 2.500 l'aveva già fatto l'ultimo decreto Berlusconi, quello di agosto. L'abbassamento ulteriore da 2,5 a 1.000 va nella stessa direzione e trovo 1.000 euro un dato, diciamo, relativamente accettabile. Sì. Dopodiché, all'interno di questo dato dovremmo distinguere, ci sono dei pagamenti che dovrebbero avere un diverso tipo di tracciatura, per esempio tutti i pagamenti effettuati nei confronti di professionisti, si dovrebbe obbligare il professionista, il commercialista, l'avvocato, il notaio, il medico, il dentista e compagnia bella, ad avere un conto corrente dedicato per le attività di carattere professionale. Bella questa, giusto. Cioè non bisogna mettere insieme nello stesso conto corrente versamenti personali e spese professionali e spese personali. Ogni professionista, e io direi anche ogni piccolo imprenditore, insomma, mi pare che gli stiamo chiedendo la luna nel pozzo, no? Stiamo dicendo al nostro panettiere di aprire due conti correnti, uno per le spese della propria famiglia, un altro per le spese e gli introiti degli incassi giornalieri. Certo. Quindi, dopodiché, una volta definito questo, che il pagamento in contanti possa essere eseguito fino a 500 euro o fino a 1000 euro, diciamo che diventa relativamente poco significativo. Io so che lei ci deve lasciare fra pochissimo, Tanno, però ho ancora una domanda per lei. No, è bella questa cosa dell'avere adesso sul panettiere, vedo già dei messaggi. Però, diciamo, imprenditore o libero professionista, è giusto che vi sia un conto corrente, anche perché così il fisco ha maggiore chiarezza. Esatto. No, perché se tu hai il conto corrente unico, dove c'è tua moglie, i tuoi figli, la tua attività privata, versamenti, non si capisce più niente. Invece tu hai il tuo conto corrente dove registri versamenti da dentista, da ristoratore, da gioielliere. Me li fate ricordare, visto che alcuni si arrabbiano, 13.000 euro lordi l'anno la dichiarazione di un gioielliere in Italia, media. 18.000 euro l'ordine. Praticamente quanto i tassisti, quindi gioiellieri, ecco, e tassisti guadagnerebbero esattamente lo stesso, sì. Non mi pare, non mi risulta. Non mi risulta, nel senso che i tassisti, a mio avviso, guadagnano un po' meno dei gioiellieri. Poi se c'è qualche tassista che guadagna come un gioielliere, visto che ci ascoltano in migliaia in Italia, mi scrivesse che guadagna come un gioielliere. Io sono bravi a mascherarla, mettiamola così. E i ristoratori in media 18.000 euro l'ordine l'anno. Allora, attenzione su questo perché il tema è enorme. Ultima domanda per lei invece. L'accordo con la Svizzera, la Germania e la Gran Bretagna l'hanno fatto. A noi converrebbe molto farlo perché la Svizzera è disposta a applicare una tassa, una tantum ai capitali che ha, pur di non svelare il nome, pur di mantenere il segreto bancario, che in Svizzera è come Guglielmo Tell, il cioccolato e l'orologio, no, è un elemento fondante dell'unità nazionale. Perché non la facciamo? Ma secondo il governo, ma badi bene che qui Giarda riferiva in Parlamento dei dati che gli sono stati forniti dal Ministero dell'Economia, quindi dei dati che devo ritenere fossero in qualche modo influenzati dal Tremonti ministro. Non c'è una ragione, diciamo, non c'è una ragione di politica economica per non volere questo accordo, c'è una ragione apparente, cioè la ragione apparente è che questi accordi sarebbero in conflitto con analoghi accordi di carattere europeo. Però voglio dire, se così fosse, la Germania avrebbe già violato questi accordi di carattere europeo, la Gran Bretagna avrebbe già violato questi accordi di carattere europeo, quello. Ed è evidente che in un contesto di questo genere, se si deve andare ognuno per conto proprio, tanto vale che lo faccia anche l'Italia, che mi pare quella più interessata a questo rapporto fruttuoso con la Svizzera. Le stime che abbiamo visto sono di 130 miliardi detenuti in Svizzera, in conti correnti. 19% di 130 miliardi. Abbiamo fatto la manovra. Una bellezza di 22 miliardi. Abbiamo fatto la manovra. Ora posso capire che Tremonti avesse tutto l'interesse a non portare a termine questo accordo, nella considerazione che questo accordo avrebbe smentito il suo scudo fiscale. Ah. Avrebbe smentito quanto fatto nel 2001, avrebbe smentito quanto fatto nel 2009. Quindi posso capire le ragioni per le quali Tremonti non volesse questo accordo. Lo capisco molto di meno da parte dell'attuale governo. Ma secondo lei il fatto che anche Tremonti fosse un importantissimo tributarista come lei, cioè se lei dovesse fare il ministro poi però si ricorderebbe da dove veniva e da dove tornerà, dei clienti, no? Certamente sì, anche se devo dire che questo è l'unico punto sul quale non mi sento di criticare l'operato del ministro Tremonti. Io non ricordo di aver incontrato clienti del ministro Tremonti che sono stati trattati meglio di clienti che dello studio Tremonti non erano. Bene, no, dico, ma sull'impianto generale complessivo sulla lotta all'evasione, questo, non con i singoli clienti. Però. Esattamente, esattamente. Grazie alla Revremo ospite, grazie al professor Tommaso Di Tanno, docente di diritto tributario all'Università di Siena, meteo, pubblicità, poi la borsa meno 3,80% sui minimi, ha chiuso, e un bel po' di risposte che devo dare agli ascoltatori al 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. ...17.42 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso subito la borsa, devo qualche risposta però sul tema dell'evasione fiscale, sui tassisti, no, nessuno se l'è preso con i tassisti, diceva il professor Di Tanno che la dichiarazione dei redditi dei gioiellieri in Italia, ricordava, è identica a quella dei tassisti. Ora, che un gioielliere mediamente guadagni quanto un tassista, secondo me è dura, però se alcuni tassisti si sentono ricchi come un gioielliere, o alcuni gioiellieri si sentono ricchi come un tassista scrivessero volentieri. Vedo che molti dicono: noi abbiamo già una contabilità separata, conto corrente separato, ce l'ha suggerito il commercialista. Benissimo, l'idea era che vi fosse un obbligo per tutte le professioni, soprattutto per tutti i liberi professionisti. Vorrei, in questo modo fareste un favore alle banche, vergogna. Allora, è la stessa tecnica utilizzata per le pensioni. Le banche potrebbero fare, uno potrebbe detrarre per esempio la dichiarazione dei redditi, i costi del conto corrente, cioè lo Stato ti può venire incontro, così come le banche adesso vengono incontro ai pensionati che riceveranno la pensione sopra i 500 euro non più via in contanti. Cioè, sono tutte scuse per non pagare le tasse, dai, diciamo una tutta, su, borsa. Qualcun altro scrive: qui si vuole lo Stato di polizia. A me queste cose fanno impazzire. Cioè, siamo il paese che ha la più alta evasione fiscale in Europa, 220 miliardi stimati, eppure si continua a evocare lo Stato di polizia. Ma dov'è lo Stato di polizia? Fa acqua da tutte le parti il controllo fiscale, al massimo questa è la critica corretta. Comunque, tonfo pesante per la Popolare Emilia Romagna, meno 9,50%, la borsa perde complessivamente il 3,80, male anche Parigi il 2,60, Francoforte il 3,30 di calo, Londra meno 1,60, l'America non sta dando una mano, meno 1,5%, euro leggermente debole a 1,32,11, Banca Popolare Emilia Romagna meno 9,45, Fondiaria meno 8,96, Monte dei Paschi meno 8,80, Banco Popolare meno 7,70, Ubibanca meno 7, Unicredit meno 5,80, Intesa San Paolo meno 5,80, Media 7 meno 5,80, Terna meno 5,70, come la Popolare di Milano il 5,40 lo perde Fiat Industrial, il 5% Fiat Auto e anche Finmeccanica. Insomma, bruttina la chiusura. Si salvano Atlantia meno 0,34, Pirelli meno 0,81%. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Sono tutte negative, Milano la peggiore. Non mi dire che sono state le agenzie di rating a tirare un'altra gufata, no? Ma è stata Moody's, eccola, ma non lì. Solo Moody's, nel senso che leggendo... Anche il capo economista di Standard & Poor's che sì. Dice bisognerebbe che fallisse una grossa banca tedesca per far capire ai tedeschi quanto tutti sono legati. Non so, in Germania qualcuno avrà fatto gesti scaramantici, prego. Sì, esatto. Comunque venerdì scorso, ad esempio, circolavano vari report, si erano privilegiati report positivi, ma Nomura, ad esempio, aveva fatto circolare un report molto critico nei confronti delle risposte date sia dalla Banca Centrale Europea sia dal Consiglio Europeo. Il report si intitolava "Il vertice europeo sembra destinato a deludere". Oggi diciamo che sono prevalsi i dubbi, tanto più che Moody's, come hai detto tu, ha girato un po' l'entusiasmo di venerdì scorso dicendo che le risposte date appunto a livello istituzionale probabilmente non saranno sufficienti e quindi si è tornati a vendere le azioni, a vendere soprattutto i titoli delle banche, i titoli che destano maggiori preoccupazioni delle banche perché sono ricche di titoli di Stato e sono ovviamente quelle che risentono maggiormente della crisi del debito. Sì, ho capito, però insomma qui è girato di nuovo il clima. Come temevamo, le agenzie di rating si sono messe a guardare bene gli accordi di venerdì e hanno capito che, e devo dire che lo raccontavano molto bene sia Oscar Giannino che Lucio Caracciolo, i nostri ospiti venerdì, il percorso per poi implementare, cioè rendere operativi questi accordi è ancora lungo, lunghissimo, e la posizione britannica non aiuta. Dopo il traffico però, Leonora, vorrei sapere su Fondiaria, sai, perché insomma c'è un consiglio di amministrazione oggi su Fondiaria, ma anche la Popolare Emilia Romagna che ha perso il 9,5% e continua a ballare. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Allora, Leonora Micheli, Popolare Emilia Romagna e Fondiaria SAI che perdono più anche delle banche da ricapitalizzare, meno 9,45 e meno 9%. Sì, esatto, oggi è andato male tutto il comparto bancario, anche MPS ha perso l'8,8%, la Popolare dell'Emilia Romagna è andata ancora peggio nonostante non sia stata sotto l'esame dell'EBA, l'autorità bancaria europea, quindi non sia costretta a fare aumenti capitale come ad esempio MPS. Perché è andata peggio? Perché da inizio anno perde meno di altri istituti, e perde meno si fa per dire, nel senso che i titoli comunque lasciano sul parterre un 43% circa da inizio anno. D'altra parte, facendo un confronto con MPS che oggi ha perso l'8,8%, la Banca Senese da inizio anno perde circa il 65% del proprio valore, quindi diciamo che si va a vendere la BPR perché ha una performance migliore, ripeto, ancora tra virgolette, rispetto ad altri istituti bancari. Per quanto riguarda Fondiaria SAI, grande attesa, oggi si è tenuto il consiglio di amministrazione della compagnia assicurativa e ovviamente il mercato continua a interrogarsi su quello che sarà il futuro dell'assicurazione. Per adesso non sono uscite indicazioni esatte dal consiglio di amministrazione, d'altra parte, anche se non sarà notizia di oggi, probabilmente del board di oggi, sicuramente l'assicurazione dovrà sviscerare il problema se effettuare un nuovo aumento di capitale. Nei giorni scorsi ricordiamo che Mediobanca ha inviato una missiva in cui suggeriva a Fondiaria SAI di effettuare un aumento di capitale da 500-600 milioni di euro, dopo tra l'altro l'operazione sul capitale da 450 milioni di euro effettuata solamente la scorsa estate. E tra l'altro questo comporterebbe anche un riassetto azionario, visto che la controllante Premafin non ha le forze ovviamente per sottoscrivere l'aumento di capitale. E qui insomma tutto un mondo che cambia, l'Igresti considerato dagli anni 90 grandissimo imprenditore della finanza, Don Verzè, cioè tutto il mondo milanese che aveva alcuni perni fondamentali si sta muovendo, ma non per moto proprio, per crollo diciamo dei bilanci. Andiamo avanti, Mediaset meno 5,80%. Mediaset, in questo caso ci sono due punti interrogativi. Il primo ovviamente è sul dibattito di questi giorni circa l'asta sulle frequenze. Come sappiamo infatti c'è molta polemica sul fatto che l'asta sia gratuita e quindi occorrerà vedere se ci saranno degli sviluppi, e questo penalizza ovviamente Mediaset. Poi c'è anche il nodo di Endemol. Quest'oggi è emerso che Time Warner ha effettuato un'offerta. Ricordiamo che Mediaset controlla il 33% di Endemol. In verità cioè questo non dovrebbe impattare sui bilanci di Mediaset, che ha già svalutato Endemol. D'altra parte non ha nemmeno fornito sollievo, nel senso che l'offerta non ha, come vediamo, fornito sollievo alle azioni, che hanno comunque perso punti. Ancora due titoli vorrei fare contare rapidamente. Terna, che appunto si è mossa male oggi, meno 5,80%, e Impregilo oggi c'è una dichiarazione importante di Salini, che ha detto vuole portare avanti, è entrato nel capitale di Impregilo, Salini, Todini Costruzioni, e vuole portare avanti l'integrazione. Terna e Impregilo, vai. Terna rapida. Ha fatto male oggi, l'autorità per l'energia ha pubblicato le indicazioni su quelle che saranno le nuove tariffe elettriche, che sono state giudicate deludenti per la società da parte degli analisti, in quanto impatteranno negativamente sul bilancio secondo invece rispetto di quanto si attendessero gli analisti, e quindi i titoli praticamente sono andati giù. Ovviamente queste sono solo indicazioni, non sono ancora definitive, però in l'andamento, cioè in genere le indicazioni delle authority poi diventano effettive. Per quanto riguarda invece Impregilo, i titoli hanno tentato di opporsi al calo di borsa, hanno fatto meglio del mercato visto che hanno lasciato sul parterre solamente l'1,23%, in questo caso è stata un'intervista, come hai ricordato tu. Sì, e quindi l'idea che Salini voglia andare avanti nell'integrazione. In assoluto Green Vision più 28,6%, CHL più 18,70%, e la banca popolare dell'Etruria più 6,80%. Peggiore in assoluto Cogeme meno 12%, Cape Listed ogni volta meno 21%, Milano Assicurazione meno 9,24%. Grazie a Eleonora Michele, Radio Cori, Sole 24 Ore. Fashion. avete capito, sono i Sex Pistols che anticipano il problema che si è creato. Cameron, l'Inghilterra che rimette la nebbia sulla manica. Leonardo Maisano, corrispondente sulle 24 ore della Gran Bretagna, buonasera. Leonardo? Buonasera a voi. Eccoci. Dopo abbiamo il GR, ma in una battuta di 20 secondi vorrei solo sapere questo, poi ne parliamo dopo il GR. Sono un po' pentiti gli inglesi, sì o no? Sono spaccati a metà, ma in linea di massima direi di no. No, quindi meglio difendere la City e mandare a Remengo d'Europa. Il problema è che non difendono neanche la City. Allora di questo parliamo dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. La Gran Bretagna gioca un ruolo di primo piano nel contesto europeo. La Gran Bretagna continuerà a stringere alleanze riguardo questioni che vogliamo che siano realizzate. Abbiamo sempre avuto un ruolo di guida nell'appoggiare i processi di allargamento dell'Unione. E infatti, nel corso del Consiglio europeo, è stato firmato il trattato di adesione della Croazia all'Unione. Questo è stato un trattato europeo che sono stato contento di firmare. Non credo ci sia una possibilità di scelta per la Gran Bretagna tra sacrificare l'interesse nazionale o perdere la nostra influenza nel processo decisionale su questioni chiave in Europa. Voglio essere chiaro, penso sia possibile essere un membro importante e impegnato dell'Unione Europea, ma restare fuori da accordi che non proteggono i nostri interessi. Questo è quello che ho fatto al Consiglio Europeo. Questo è quello che continuerò a fare finché sarò primo ministro. Così appunto il leader britannico Cameron, l'avete appena ascoltato, però contestato anche dall'opposizione. Il punto è un altro, che il commissario agli affari economici e monetari Olly Rehn oggi ha detto: attenzione, anche con il veto della Gran Bretagna, con l'uscita della Gran Bretagna, la City londinese non verrà salvata dalle regole che applicheremo al settore finanziario, perché abbiamo imparato le lezioni della crisi. Allora, Leonardo Maisano, il punto mi sembra questo. Cameron dice: tra l'interesse nazionale, la difesa dei nostri interessi, che poi sono quelli finanziari della City, e una nuova Europa, abbiamo preferito il primo. Ma veramente difenderà i suoi interessi in questo modo la Gran Bretagna? Ammesso che sia corretto sacrificare un'idea di Europa per difendere la piazza finanziaria della City? Beh, innanzitutto sull'idea europea, la Gran Bretagna ha, come dire, una posizione sua che non è paragonabile a quella degli altri partner e che si distanzia da sempre, si è sempre distanziata dal solco, diciamo, del nucleo fondatore dell'Unione. Quindi non condivide quell'ideale che può essere di stampo federalista o di strettissima cooperazione intergovernativa. Ha sempre avuto una visione più, diciamo, utilitarista, in senso positivo, pragmatico, quale è sempre stata l'impostazione britannica. In questa logica bisogna vedere la sua posizione sui servizi finanziari. Ora, la questione di fondo però è capire se la scelta di Cameron è una scelta che in effetti difende e tutela i servizi finanziari, oppure se lascia di fatto la situazione come prima. L'impressione prevalente è che in realtà non cambi niente, cioè che, come diceva il commissario Rehn, in realtà se 26 paesi si mettono d'accordo in chiave intergovernativa sull'introduzione di una serie di misure di regole finanziarie e poi portano questa proposta all'interno dell'Unione Europea, dove si aggiunge l'unico paese mancante, cioè la Gran Bretagna, è chiaro che hai continui ad avere una maggioranza contro la Gran Bretagna. Cameron sostiene che in realtà, se ci fosse stato un trattato all'interno del trattato, quello che lui gli sosteneva gli fosse stato chiesto, questo sarebbe stato molto più difficile da gestire, sarebbe stato molto più difficile per la Gran Bretagna riuscire a gestirlo. In realtà è molto, molto dibattuta come tesi, e non solo l'opposizione, ma anche i membri del governo liberal-democratico sono contrari, cioè non vedono questa come dire, capacità di tutela aggiuntiva che Cameron avrebbe introdotto. Devo dire, per quel poco che conto il mio parere, cioè nulla che anche a me sembra che sia difficile, poi se si mettono d'accordo gli altri paesi a 26, tutelare la City da controlli e da regole finanziarie più strette, come dice di aver voluto fare Cameron. Sicuramente quello che è certo è che è uscito dal nuovo processo, diciamo, europeo. Quello che è aleatorio è se questo gli permetterà di tutelare meglio la City. Grazie Leonardo Maisano, in collegamento con noi da Londra, dove è corrispondente del Sole 24 Ore. E noi adesso invece cambiamo tema e ci occupiamo di concorrenza. Siamo sempre a favore della concorrenza sana, corretta, e anche delle liberalizzazioni, e parliamo di concorrenza ferroviaria. Eh sì, perché dovremmo esserci, dopo mesi, anni di polemiche tra Ferrovie dello Stato e NTV, cioè i privati che fanno concorrenza sull'alta velocità. Domani NTV mostrerà i treni, i convogli si chiamano, con cui farà concorrenza dal 2012 a Trenitalia sui collegamenti ad alta velocità. Ricordo che NTV è fondata nel 2006 da Luca Cordero di Montezemolo, Diego Della Valle, Gianni Punzo, e attraverso MDP Holding i tre possiedono il 33% della società. Poi ci sono le Ferrovie francesi che hanno il 20%, il gruppo Intesa San Paolo che ha un altro 20% e Alberto Bombassei che ha un altro 5% attraverso la nuova FURB. Allora, cerchiamo di capire cosa verrà presentato domani e quali saranno le caratteristiche di questi treni ad alta velocità che faranno concorrenza alle Ferrovie dello Stato. Siamo in collegamento con l'amministratore delegato del gruppo ingegnere Giuseppe Sciarrone. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, domani presentate la Nola, Italo, che cosa presentate esattamente? La parte industriale del nostro progetto, quindi presentiamo i treni e l'impianto dove verrà effettuata la manutenzione dei treni, riservandoci poi tra poche settimane di presentare la parte commerciale. Quindi domani ci sarà il primo treno Italo che si apre al pubblico e alla stampa, sia nella sua parte tecnologica sia anche nella sua parte di interno. Allora, voi gestirete una flotta a regime di 25 convogli, di cui 8 sono costruiti in Italia, negli stabilimenti per quello che riguarda Alstom, perché il treno viene costruito dalla francese Alstom, e gli stabilimenti in Italia sono in Piemonte. Sono in Piemonte, a Savigliano in provincia di Cuneo, dove è nato un treno storico della storia delle ferrovie italiane, che è il Pendolino. E quindi noi nell'affidare la costruzione dei treni alla francese Alstom abbiamo preteso che parte della flotta fosse costruita in questo storico stabilimento. Che era la ex Fiat Treni, no? È la ex Fiat Ferroviaria, che sì. Nel 2001, 10 anni fa, fu venduta da Fiat ai francesi di Alstom. La cosa interessante, questi treni fanno 360 all'ora, ma in realtà è la legge che stabilisce quanto si va veloci sull'alta velocità, giusto? Dunque, il treno è stato progettato per 360 km all'ora, addirittura ha la stessa motorizzazione, gli stessi sistemi di trazione del treno che ha fatto 2 anni fa il record mondiale di velocità, 575 km orari. 575, cioè se andasse a regime una cosa del genere sarebbe un'ora tra Milano e Roma, ma insomma, sì, chiaramente non è così. Vabbè, non è così. No. Però la velocità è dettata dalle caratteristiche della linea, e l'alta velocità italiana è progettata per 300 km orari, e quindi i nostri treni andranno a 300 km orari. Quali collegamenti effettuerete inizialmente? Noi cominciamo con la linea Milano Bologna Firenze Roma Napoli. Poi attiveremo la linea Roma, Firenze, Bologna, Venezia, Padova, Venezia, e infine la Torino-Milano. E chiaramente resta fuori la Milano-Venezia, perché lì manca ancora l'alta velocità. Lì non c'è l'alta velocità, è l'attuale linea che c'è, una linea super satura. Super satura. Ma anche a Bologna e Venezia non c'è l'alta velocità, se non ricordo male, però diciamo vi... Tra Bologna e Venezia c'è spazio per fare, c'è, spazio... c'è capacità libera e quindi è chiaro che sulla Bologna-Venezia i treni non andranno a 300, ma su una linea tradizionale andranno a 200 km orari. 200 comunque? 200 e comunque il tempo di viaggio da Roma a Venezia sarà certamente competitivo intorno alle 3 ore e mezzo, 3 ore e 40. Ecco, le caratteristiche. Io ho detto prima, insomma, che a noi piace la concorrenza, anche a chi, vedo che qualcuno scrive al 349-238-6666, insomma, la concorrenza, lo dico agli ascoltatori, noi ce l'abbiamo tutti i giorni, con un dito lei cambia stazione radio e ci fa fuori, per cui uno la pagnotta se la deve guadagnare ogni giorno, non ci piacciono i settori protetti, adesso non sto parlando solo delle ferrovie, parlo anche delle professioni, di quant'altro, ci piacciono le liberalizzazioni. Su cosa si baserà la concorrenza con, ripeto, che è una cosa sana, se fatta in maniera appunto corretta dentro il quadro normativo, la concorrenza con Trenitalia, con la Freccia Rossa? Perché la velocità abbiamo capito che per obblighi tecnici è uguale, quindi? La concorrenza si baserà sulla qualità complessiva del servizio. Trenitalia già oggi con i suoi Freccia Rossa fa un servizio che ritengo personalmente sia eccellente. Noi contiamo e ci stiamo impegnando per fare qualche cosa di meglio. Credo che ci riusciremo, ma saremo da esempio e da sprone per Trenitalia, che non farà fatica ad allinearsi ai nostri livelli. Dopodiché la concorrenza vuol dire servizi migliori, un rapporto qualità-prezzo migliore e quindi a tutto vantaggio dei viaggiatori. Allora, guardi, dottor Sciarrone, dopo il traffico vorrei capire, so che lei non ci può bruciare tutto l'evento di domani, ma insomma qualcosa di più concreto su cosa offrirete, visto che la concorrenza la farete sui servizi. Cosa offrirete, quanti classi, le tratte, 349-238-6666 per i vostri sms e anche quando partiranno questi treni. Traffico. Focus Economia. Allora, dicevamo dei nuovi treni che faranno concorrenza alla Freccia Rossa, all'alta velocità italiana. Vedo che molti ci chiedono sull'Adriatica, adesso lo chiediamo all'ingegnere Sciarrone, ma mi sembra di poter dire nulla, perché tranne quel tratto di Roma-Venezia, di Bologna-Venezia, tutto il resto è sull'alta velocità esistente, che purtroppo va, dico purtroppo per chi ne è escluso, da Torino a Milano e da Milano a Napoli. Se la concorrenza non la fate nella velocità che è uguale per tutti, per motivi tecnici, lei dice sui servizi offerti ai passeggeri, ci faccia qualche esempio. Lei citava la fabbrica di Savigliano, dove si produce anche il pendolino, è dell'Alstom, si produce il pendolino per la Virgin in Gran Bretagna. Per esempio la Virgin Rails offre, oltre al biglietto, anche il pacchetto albergo con gli sconti. Intendo tutto, intendo servizi a bordo treno, servizi quando si arriva in stazione, servizi a casa. Noi avremo un call center a disposizione 18 ore su 24 dei viaggiatori per dare informazioni, per acquistare biglietti. Intendo servizi complementari, parcheggio nella stazione, il car valet, la spedizione dei bagagli, e intendo anche offerte commerciali. Quindi anche ci voi sarà una soluzione per tutti. Ecco, anche voi quindi andrete sulle tre classi come ha fatto Trenitalia? Andremo su un numero di ambienti diversificati. Non sono classi, li chiamiamo ambienti. Ambienti, tre ambienti. Proprio, diciamo di sì. Un ambiente sobrio, un ambiente diciamo meno sobrio, un ambiente lusso, no? Un ambiente, sì. Servizio personalizzato. Tre ambienti. Tre che possono diventare anche cinque. Se c'è un po' di pazienza domani sapete. No, non voglio. Saprete tutto, ma comunque qualità e comfort per tutti. Ecco, quanto avete speso fino adesso come NTV per la flotta e complessivamente? La flotta, un treno di questi costa circa 25 milioni di euro, quindi 25 treni fa 625 milioni. Questo è l'investimento. E più altri per l'avviamento, in tutto a noi risultava 750 milioni per la flotta di 25 treni e altri 330 per avviamento, manutenzione, impianto, spazi, stazione. sistemi informativi, spazi in stazione, formazione del personale. Sì, ma ci dica qualcosa su queste carrozze che domani presentate. Avranno televisori? È vero, dunque, ho letto in giro che ci sarà allora, anche questo, la carrozza cinema, no? Allora, questo il nostro è un treno completamente informatizzato. Lungo tutto il treno corre una rete di cavi in fibra ottica che sono collegati ad un portale, ad un'antenna posta sul tetto del treno. L'antenna è collegata via satellite ad una centrale e quindi il treno è continuamente, permanentemente... Anche in galleria? Anche in galleria, tranne che nella galleria più lunga tra Firenze e Bologna, per cui sono lì saranno necessari degli interventi a terra sulla galleria e speriamo che il gestore dell'infrastruttura farà il prima possibile. Quindi è un wifi, uno è sempre collegato, ci sta dicendo. Wifi sempre collegato, sarà possibile per la prima volta vedere la televisione in diretta, televisione satellitare in diretta per la prima volta al mondo. Novità assoluta, ci saranno intrattenimento, news, previsioni meteo, eccetera, e poi c'è anche una carrozza cinema dove attrezzata come fosse un cinema si potranno vedere prime visioni, anteprime per chi fa un viaggio. Ma è vero che avete affidato a una nostra vecchia conoscenza, perché molte volte è ospite in questo programma, Oscar Farinetti, quello che ha creato Italy. Oscar Farinetti è la nostra scelta per quanto riguarda la ristorazione a bordo. Oscar ha inventato un nuovo modo di fare ristorazione. Sui nostri treni non ci sarà la vettura ristorante, ma una ristorazione al posto con una modalità tipo aereo? Tipo aereo, ma con cibi completamente innovativi. Cosa vuol dire? Che il cibo dell'aereo non è buono? Studiati no, ce ne sono di ottimi, ce ne sono di buoni, ce ne sono di meno buoni. Senta, Farinetti l'ha chiamato altri cibi. Altri cioè, cibi, vabbè, ma lui è sempre immaginifico. È una forma di ristorazione che ha inventato lui. Ingegnere, è un grandissimo promotore di se stesso, Farinetti, ma è veramente geniale in questo. Senta, ingegnere Sciarrone, ma il vostro vero concorrente è Trenitalia o Alitalia? No, il nostro vero concorrente è Trenitalia, in quanto intendiamo servire prevalentemente il mercato di viaggi fra le città servite dall'alta velocità. E il grosso dell'alta velocità sono gli spostamenti fra Roma e Napoli, fra Roma e Firenze, fra Milano e Bologna, fra Bologna e Torino e così via. Non c'è soltanto la Roma-Milano. Tra Roma e Milano c'è un'offerta fortissima di Trenitalia, c'è un'offerta fortissima di Alitalia. Noi non riteniamo di impegnarci a fondo sui collegamenti diretti Milano-Roma. Ah no, cioè non è quello, questo è interessante, non è quello diciamo su cui andate a fare la maggiore concorrenza, su Milano-Roma? No, noi andremo a fare su Roma-Napoli, su Milano-Bologna, ecco, su Milano-Torino, sul Firenze-Venezia. Cioè sulle tratte un po' più brevi, però più dense. Sì, perché l'alta velocità avvicina l'Italia. Avvicina le città. Però ci sarà il Milano-Roma. Ci sarà il Milano-Roma perché ai nostri clienti daremo anche l'opportunità di fare con noi il Milano-Roma e quindi avremo tre coppie di corse, tre a scendere, tre a salire alle ore del mattino, del metà giornata e del secondo. Però la concorrenza, l'offerta più grossa sarà invece sulle tratte diciamo più intermedie, chiamiamole così. Sarà l'offerta, sarà sul Milano-Roma, confermate a Firenze e Bologna. Sì, ho capito. Cioè quello non solo il Milano-Roma diretto, non soltanto Milano-Roma quello diretto, che ci mette tre ore per dirla, per farsi capire, ma anche Milano-Roma che però fermando a Firenze e Bologna ci mette un po' di più, ma permette poi di scendere in queste città. L'obiettivo come quota di mercato? L'obiettivo noi pensiamo di arrivare a un 20-25% su un mercato che deve ancora crescere. L'alta velocità sta muovendo i primi passi, gli italiani l'hanno scoperta, la scopriranno sempre di più. Purtroppo questo avviene in un periodo difficile. Sì, difficile, ed ecco perché vi invito a attenzione anche ai prezzi. Va bene i servizi nella classe alta, ci mancherebbe, nella classe business, ma anche i prezzi. E comunque in bocca al lupo a NTV Italia, come a tutti i nuovi operatori che fine gennaio, inizio febbraio partiranno con il servizio operativo. E grazie quindi all'ingegner Giuseppe Sciarrone, un auguri di buona serata anche a voi in ascolto. Ricordo che si fosse messo in collegamento meno 3,80% oggi Milano, ne abbiamo parlato in apertura, e Francoforte perde l'1,90%. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. Il Natale si sente.